Allora, io sono un insomma esperto, lasciamo perdere, preoccupato per gli impatti ambientali delle onde elettromagnetiche. È un tema di cui mi occupo da un po' di anni e ho fatto uno studio su Rocca di Papa, dove insistono tutte le antenne di Montecavo. E volevo chiedervi se insomma questo nuovo trasmettitore, che da quello che ho capito è più potente, ha dei dispositivi insomma per migliorare l'impatto ambientale, cioè, insomma un'analisi di questo tipo. Volevo sapere se voi l'avevate fatta, perché gli abitanti di Rocca di Papa sono abbastanza preoccupati per in generale, no, la situazione che vivono, per cui intanto secondo me un ragionamento che si potrebbe fare per gli anni futuri potrebbe essere quello di delocalizzare il trasmettitore, che è una cosa che i comitati di cittadini di Rocca di Papa propongono da tanti anni. Il difficile è trovare una posizione nuova che non sia troppo vicino alle teste delle persone, però forse qualcosa di meglio di Montecavo ci sarebbe. E niente, questa è la mia preoccupazione di cui vi volevo rendere partecipi, è tutto qua. Ok, ti rispondiamo se vuoi stare in linea come vuoi, se no ci ascolti, ti rispondiamo, sì, sicuramente. Sì, in linea, va bene. Ok, allora guarda, il problema noi l'abbiamo sentito fin dall'inizio, questo dell'inquinamento elettromagnetico, perché molti di noi, a prescindere dal lavoro in radio, si sono occupati con impegno proprio della questione fin da quando è uscita, e cioè fine anni 70, inizio anni 80 già si parlava di questo, per esempio l'inquinamento elettromagnetico non solo da onde radio, ma per esempio le linee alta tensione in prossimità di abitazioni, eccetera. Quindi che cosa abbiamo fatto concretamente? Te lo dico subito, concretamente noi siamo, non dico gli unici, ma sicuramente fra i pochissimi che hanno rispettato da sempre i limiti di legge sulla potenza delle emissioni. Quindi noi abbiamo tenuto sempre il nostro trasmettitore vecchio a valvole, sempre quello, insomma, quindi ti puoi immaginare di che cosa parliamo, nei limiti dei 2 kW. Cosa che non si può dire della maggioranza, senza fare nomi, di tutti gli apparati di trasmissione che sono a Montecavo. Noi l'abbiamo mantenuto proprio per questo motivo, e anche per il motivo per cui la legge ti impone una cosa che ha una volta tanto un senso: meno potenza c'hai e meno inquinamento elettromagnetico c'hai, insomma, per dirla in breve, e quindi noi l'abbiamo sempre rispettato. Quanto al trasmettitore di oggi, è sicuramente di ultima generazione e quindi ha due possibilità. Per esempio, che la notte, dove non hai questa necessità di potenza, puoi ridurne la potenza, e quindi riducendone la potenza fino a dimezzarla praticamente, e la riduci anche l'inquinamento. E poi ovviamente è un apparato a stato solido, come si dice, non è a valvole, quindi c'ha meno dispersioni, meno cose, quindi migliora sicuramente anche da questo punto di vista, oltre che nitidezza del segnale e capacità. Però è sempre, non aumentiamo la potenza, è sempre un trasmettitore che starà sull'ordine dei 2 kW, quindi su questo noi ci atteniamo rigorosamente, insomma, ecco, cioè, non so se questo soddisfa la tua cosa, però è quello che concretamente abbiamo fatto e intendiamo seguitare a fare. E per dare giusto un'indicazione, anche, no, materiale del come si fa, no, a dire questa illazione che le altre radio trasmetterebbero a più potenza, penso che l'indicazione più semplice sia guardare anche il mercato dei trasmettitori, e i trasmettitori sul mercato sono rarissimi, quelli considerati sotto i 3 kW, che si considerano a medio-bassa potenza, per capirci, mentre si considera normale avere trasmettitori sopra i 10 kW. In Italia i trasmettitori sopra i 10 kW chiaramente sono una roba potentissima, inquinantissima, ma sono in realtà anche il motivo per cui c'è la rincorsa, cioè nell'etere attuale di fatto bisogna urlare in termini di watt perché tutti gli altri urlano, cioè questo non rispetto delle, non soltanto della legge, ma anche proprio, no, di un buon senso in termini di inquinamento, è ciò che costringe poi anche tutti gli altri ad andare a catena. Quindi si tratta di una doppia violazione. Cioè, in pratica, se noi trasmettessimo alla potenza a cui magari si trasmetteva qualche anno fa, è una potenza con cui tranquillamente si copre un territorio grande come quello di Roma, cioè una potenza magari inferiore al kilowatt, cosa ti trovi? Ti trovi che ti coprono le radio che sono sulla tua stessa frequenza ma su un altro territorio, quindi magari le radio laziali di altre province o radio umbre anche, che possono tranquillamente sentirsi da te perché hanno una potenza incredibile. Quindi da questo punto di vista l'unica soluzione, oltre naturalmente a fare il nostro, no, piccolo, cioè continuare a non sforare su questi limiti, sarebbe richiedere e cercare, no, di imporre un abbassamento tutti insieme delle potenze, ma evidentemente questo si scontra con degli interessi commerciali che altro cercano di imporre. Sì, se posso dire una cosa, mi fa molto piacere di sentire questa cosa, complimenti a tutti. Non lo sapevo, avevo cercato delle informazioni così al volo sul vostro sito, ma ho pensato di chiamare direttamente ecco. E va bene il ragionamento, lo condivido in pieno. Ho fatto delle misure personalmente su a Montecavo e la frequenza di Radio Onda Rossa anni fa non ero riuscito a identificarla proprio nel dettaglio, però in generale in quella banda lì avevo visto che non c'erano elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, il che insomma si sposa perfettamente con quello che voi mi dite. E grazie per la conferma. Invece su a Montecavo purtroppo il problema principale è dato dai trasmettitori delle televisioni. Eh sì, esatto. Cioè raggiungono delle potenze elevatissime. Sì, spaventose, sì. E stanno anche su frequenze più elevate, che senza entrare nei dettagli, ma frequenza più elevata tendenzialmente fa più male. Sì, insomma, ci sono degli effetti diversi. Le frequenze elevate non vengono assorbite all'interno dell'organismo, ma restano più che altro superficiali, però raggiungono delle energie maggiori, degli effetti di riscaldamento più elevati e comunque dal punto di vista legale c'è una sottostima degli effetti, ovviamente degli effetti sulla salute. Però è anche vero che in Italia abbiamo dei limiti abbastanza bassi, cioè rispetto a molti altri paesi stiamo messi meglio, ecco, questo è sicuramente vero. Però TV una parte che penso pesi, non so se lo stai per dire, è il fatto che adesso non vorrei sbagliarmi, ma le televisioni sono considerate forse la legge Gasparri un asset strategico nazionale, per cui sostanzialmente intoccabili, cioè nessuno ha possibilità, tantomeno i comuni, ma nemmeno autorità più in alto, di intervenire su quello che riguarda trasmissione televisiva, perché si considera una parte strategica nazionale che può essere decisa solamente in sede di governo. Quindi c'è anche una sostanziale intoccabilità di ciò che riguarda le TV. Però scusa, ti ho interrotto. No, avevo finito. Comunque questa cosa che dici non sono sicuro che non valga anche per le radio, o almeno per le radio pubbliche. Probabilmente succede la stessa cosa. Quello che dici te però riguarda la localizzazione degli impianti e non i limiti di emissione, quelli valgono per tutti quanti. E il punto è che comunque se tu c'hai un campo elettromagnetico prossimo ai limiti di legge su tutto un paese come Rocca di Papa, tu stai irradiando una popolazione intera a un livello enorme di campo elettromagnetico che è si parla di decine di migliaia di volte maggiore di quello che è il campo elettromagnetico di fondo naturale, insomma, a cui siamo tutti nati e cresciuti nelle generazioni passate, ecco, fino a 100 anni fa. E quindi su tutto quello che possono essere gli effetti sulla salute si fanno ipotesi, ci sta un dibattito scientifico in atto, però come anche voi giustamente dicevate ci sono interessi enormi che remano, che guidano, ecco, tutta lo sviluppo tecnologico e anche politico dell'amministrazione di questa problematica. Comunque vabbè, io a questo punto vi saluterei, non so se sì, non ho altro da dire, grazie a tutti e a tutte, approfitto per salutarvi. Io un paio d'anni fa sono stato nella redazione della trasmissione Impatto e insomma un bel po' che non ci vediamo, però dagli forte, vi voglio bene, vi ascolto sempre. Va bene, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.